Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, Industry 4.0, ne sentiamo parlare continuamente anche per colpa di questa trasmissione. Comunque l'industria è ritornata centrale, l'industria deve modernizzarsi, o staremo dentro questa rivoluzione produttiva oppure rischiamo di diventare ancora più poveri e di declinare vieppiù. L'Italia è un paese avanzato nella manifattura, ma per molti aspetti è in ritardo. Io nel mio ultimo libro, che si chiama Industriamo l'Italia, esordisco dicendo che l'Italia è un paese vecchio, di vecchi e per vecchi. Allora la domanda è: se l'Italia ha delle arretratezze, se il sistema industriale ha delle arretratezze, se ci sono delle competenze arretrate, ce la faremo? Ci sono le competenze? Ci sono i macchinari adatti? Gli imprenditori hanno voglia di investire? Di questo e di quali competenze siano necessarie per l'Industria 4.0 ne discutiamo oggi con il professor Marco Taisch. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Marco Taisch è spesso ospite di questa trasmissione ed è un guru, secondo me, dell'industria, del manifatturiero. Lui insegna Advanced Manufacturing al Politecnico di Milano e con un giovane imprenditore che si chiama Giordano Riello. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le persone in collegamento. Allora, professor Taisch, sì. L'Italia è un paese vecchio di vecchi e per vecchi? Questo Filippo Stone è sempre molto negativo, no? Io credo che l'Italia è un paese che sicuramente ha un parco macchine che rispetto a quello di altri paesi come quello della Germania è sicuramente più arretrato. L'ultima indagine di Ucimu dice che l'età media delle macchine utensili installate in Italia è oltre 12 anni, quindi questo evidentemente è un fattore che limita la produttività del sistema paese, la produttività delle nostre imprese. Su questo evidentemente bisogna lavorare. Il piano nazionale 4.0, andando a favorire gli investimenti con l'iperammortamento e il superammortamento, aiuta sicuramente gli imprenditori virtuosi che hanno voglia di investire a svecchiare il parco macchine, quindi ad aumentare la loro produttività e di conseguenza la loro competitività. Ma come mai l'Italia ha un parco macchine vecchio di 12 anni? Perché negli ultimi anni non abbiamo investito, mentre la Germania immediatamente a valle del 2008 della crisi ha avuto un rallentamento ma poi è tornata ad investire, la Francia è tornata ad investire sugli stessi livelli prima della crisi, l'Italia non lo ha fatto. Questo forse perché c'era un po' di timore da parte dei nostri imprenditori e forse perché le condizioni di incertezza non lasciavano prevedere una tranquillità che consentiva di fare gli investimenti. Io credo che ci sia anche un fattore psicologico, no? Che in qualche modo ha frenato, e quindi forse questo è un aspetto che deve essere riconsiderato. La domanda... Ecco, fattore psicologico, parliamone un attimo, perché alle volte per la produttività ce la si prende, secondo me, un po' troppo con il lavoro, e il problema sta negli investimenti e nelle macchine, che non è che ci siano stati tantissimo, e questa questione del fattore psicologico mi interessa. Io credo che innanzitutto la produttività che ha cominciato a scendere a partire dal 1998, la produttività di tutti i fattori produttivi, quindi non solo quella del lavoro. Gli Stati Uniti, la Germania e la Francia dal 1998 ad oggi hanno continuato ad aumentare la loro produttività, mentre noi abbiamo perso 4 punti percentuali. Come mai? Dal 98. Beh, io credo che sicuramente un aspetto sia quello dell'invecchiamento del parco macchine, e forse anche, come posso dire, il fatto che non abbiamo investito. E ma perché non abbiamo investito? E questo bisognerebbe chiederlo agli imprenditori. Ecco, ne abbiamo qui in linea uno giovane che ha 27 anni, ha già la laurea in ingegneria, il matrimonio, pilota gli aerei, fonda le start-up, non ha mai un attimo di pace, a 30 anni avrà già fatto tutto, come Alessandro Magno. Giordano Riello. Sì, la correggo solo sulla laurea in ingegneria che mi manca, che la vorrei avere ma non ce l'ho. E che cosa ce l'ha? Io non sono laureato. Ah, ecco, ci mancava qualcosa, perché se no era tutto troppo perfetto. Lavorava e non studiava. No, in verità a me, io ho anche studiato, ho lasciato... L'hanno bocciato agli esami? No, io ho lasciato 3 esami dalla laurea per dare vita alla mia startup, dovevo fare una scelta e ho rischiato inseguendo il sogno. Startup di cui abbiamo parlato alcune puntate fa di Fabbrica 2.4. Esatto. Veniamo invece al tema più propriamente imprenditoriale. Perché c'è questo rallentamento finora, fino al recente decreto sull'Industry 4.0? Perché c'è questo rallentamento negli investimenti di macchinari e perché secondo lei c'è meno produttività? Ma io credo che sia legato anche e soprattutto a un fattore anagrafico di età. Ricordiamo che l'innovazione si fa attraverso anche i giovani, le nuove leve. Il fattore di competitività principale del nostro paese è la manifattura. Ricordiamo che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania e prima della Francia. Però se non si investono in macchinari e il macchinario costa e non lo fanno i giovani, sicuramente il paese perde di competitività a livello europeo e a livello globale. Però quindi bisogna svecchiare, quindi fare un ricambio generazionale, anche un ricambio dei macchinari. Proprio lì voglio arrivare, però un ricambio generazionale, un ricambio di macchinari si può attuare se ci sono anche dei supporti finanziari per i giovani che hanno idea di fare industria. Già è difficile fare industria in generale, è ancora più difficile farlo in Italia ed è quasi impossibile fare un'industria manifatturiera nel nostro paese dove non ci sono le risorse economiche spesso per fare impresa e quindi i nostri capitali intellettuali fuggono in paesi dove queste condizioni ci sono. E a mio avviso una manovra che porti un iperammontamento al 250% per i macchinari 4.0 e un superammortamento al 140% per i software e lo stesso 140% vale anche per gli acquisti macchinari non 4.0 può essere un inizio di un percorso che sicuramente può incentivare la creazione di nuove imprese attraverso i giovani e quindi attraverso la creazione di innovazione e competitività e anche dello svecchiamento del parco macchine delle aziende attuali presenti. Quindi il problema è che ci sono ancora troppi vecchi al comando? Io credo che ci sia non troppi vecchi al comando, ma non si riesca a dare spazio abbastanza ai giovani e i giovani a loro volta devono avere l'umiltà di capitalizzare l'esperienza che possono insegnare ai senior e di inserire quella parte innovativa, un po' di rischio e anche un po' di incoscienza, perché ci vuole anche quella in fabbrica, per dare uno slancio differente al nostro sistema economico. Senta, ma lei ha fatto una start-up che fa schede elettroniche e sistemi di illuminazione, e sì. Voi avete fatto degli investimenti in macchinari? Noi abbiamo investito di recente circa 200.000 euro per una nuova linea di produzione per le schede elettroniche, quindi una linea SMD. E parliamo di 200.000 euro, farebbe un po' ridere se non fosse che parliamo di un'azienda di 500.000 euro. Sì, esatto, fino a quest'anno, noi chiudiamo il fatturato di quest'anno con circa 500.000 di euro, e però abbiamo già ordini in pancia per il prossimo anno di circa 1.500.000 euro, quindi triplichiamo il fatturato attuale. Questo gli investimenti in macchinari che ruolo hanno avuto? È preponderante. Gli investimenti in macchinari ci hanno permesso di creare poi quel portafoglio di ordini che ci dà respiro per il prossimo anno, quindi il macchinario è fondamentale per dare competitività all'azienda, è come avere una macchina senza cambio, se no. Comunque il tema è che certamente in Italia c'è una classe di imprenditori eroi che sono quelli che tengono sul paese e gli permettono di vivere, e soprattutto sono quelli delle medie imprese, il cosiddetto quarto capitalismo identificato dall'amico Fulvio Coltorti, ma ci sono anche degli imprenditori che non investono perché non hanno fiducia, perché sono ripiegati su se stessi, perché pensano di avere ancora delle rendite di posizione, perché sono vicini alla politica. Insomma, c'è una classe imprenditoriale che è una classe umana e che non è tutta da salvare, e probabilmente parte del ritardo sta anche in questo. Comunque il tema fondamentale che ci interessa e di cui parleremo nella seconda parte della trasmissione col professor Taish è quello di quali competenze per l'Industry 4.0, come deve cambiare la formazione, come deve cambiare il lavoro, che cosa bisogna studiare e che cosa devono studiare non solo quelli che si preparano a entrare nel mondo del lavoro, ma quelli che sono già in azienda o quelli che fanno gli imprenditori. Adesso avvisi sul traffico e pubblicità, restate con noi. Siate pure più cattivi a Natale, che ai piatti buoni ci pensiamo noi. Indovina chi viene a cena alla vigilia? I migliori chef stranieri in Italia. Sono Valentina Furlanetto e vi aspetto per il cenone della vigilia. Venite affamati. Indovina chi viene a cena? Sabato 24 dicembre alle 22:30 su Radio 24. Io ho comunque sia le idee chiare, cioè il liceo linguistico. A volte anche prima di dormire ci penso, ma sarà la scuola giusta. Al via il 16 gennaio le iscrizioni a scuola e per i ragazzi di terza media non è facile districarsi fra licei tecnici e professionali. Sono Maria Piera Ceci e insieme ad insegnanti, ragazzi, scuola.net e con i consigli di Roberto Vecchioni e Alessandro D'Avenia vi darò una mano nella scelta delle superiori. Scuola, quale scelta per i nostri figli? Sabato 31 dicembre dalle 11 su Radio 24. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, Fabbrica 2.4, abbiamo come ospite il professor Marco Taisch, guru della manifattura, docente al Politecnico, e Giordano Riello, giovane imprenditore dell'omonima dinastia. Parliamo di Industry 4.0, di come svecchiare il paese e di quali competenze servono. Ecco, appunto, sul tema delle competenze vorrei soffermarmi con Taisch. Che cosa bisogna sapere, professore? Ma io credo che la quarta rivoluzione industriale è sostanzialmente una rivoluzione digitale. Abbiamo detto più volte che sono arrivate a maturazione una serie di tecnologie, dall'internet delle cose, ai big data, alle nuove interfacce uomo-macchina, e quindi questo evidentemente vuol dire un nuovo modo di usare il dato, un nuovo modo di usare l'informazione. Questo secondo me è l'asse portante di questa rivoluzione, quindi le persone devono, a partire dagli imprenditori ma anche dai manager che decidono, fino ad arrivare all'operaio che oggi controlla una macchina, controlla una linea, cambiare il modo di prendere le decisioni su un dato, su delle informazioni che oggi sempre di più diventeranno disponibili a basso costo, e quindi non più, lasciatemi dire, prendere decisioni di pancia, perché tanto io so cosa bisogna fare, l'ho sempre fatto, ma prendere decisioni sulla base di dati e di informazioni. Quindi abituarsi a leggere i dati credo che sia una competenza che sarà importante. In pratica abbiamo bisogno dei cosiddetti data scientist? Abbiamo bisogno da un lato di data scientist, questo sicuramente laddove l'azienda sia di medie, di grandi dimensioni, quindi produca moli significative di data, no? Quello che noi chiamiamo, quello che in gergo si chiamano i big data. E quindi abbiamo bisogno di data scientist, di persone che siano in grado di trasformare quei dati in informazioni e renderle disponibili poi a noi che dobbiamo decidere su quei dati. E quindi poi bisogna anche imparare a interloquire con questi data scientist, evidentemente, perché appartengono a un mondo e una cultura un pochino diversa, e quindi qui nasce necessariamente la capacità di sviluppare poi quella interdisciplinarità che l'industria 4.0 sempre di più richiederà nel prossimo futuro. Quindi ci vogliono più ingegneri, ci vogliono data scientist che sono da formare, ma bisogna anche essere interdisciplinari, cioè come si tiene insieme tutto questo? Io credo che ci vogliono non solo più ingegneri ma anche più tecnici, più competenza tecnica, quindi voglio dire, non attenzione a non focalizzare la nostra attenzione sul fatto che l'industria 4.0 è solo per, no, per gli ingegneri. Noi dobbiamo lavorare su tutti i livelli e quindi aumentare il numero di persone che studiano le cosiddette materie tecnologiche, scientifiche, la matematica e la fisica, a partire dagli ITS, dagli istituti tecnici superiori, che in Italia purtroppo, come posso dire, abbiamo un pochino abbandonato e che invece costituiscono quello zoccolo duro che l'impresa manifatturiera italiana ha bisogno. E poi bisogna dare quelle competenze trasversali di cui abbiamo parlato. Ma chi è che deve avere le competenze trasversali? Ci sono gli ingegneri che devono avere le competenze trasversali? È chiaro che nei diversi ruoli tutti li devono avere. Noi al Politecnico di Milano, ma questo vale per molte facoltà di ingegneria in Italia, ormai da anni abbiamo affiancato ai corsi più specialistici, più tecnici, poi quelle competenze di soft skills, di gestione dell'impresa, di organizzazione, proprio perché le persone devono lavorare in ambienti dove ci sono altre persone, quindi saper comunicare, saper gestire le situazioni è fondamentale. Io credo che questo però debba arrivare a tutti i livelli dell'impresa, e quindi nei prossimi anni non dobbiamo solo pensare a formare le nuove leve, i nuovi giovani, i giovani che entrano in azienda, ma dobbiamo non perdere quel bagaglio di competenze e esperienza che è già presente in azienda, andando ad aggiornare le competenze che oggi vi sono, le risorse umane che oggi vi sono, e mettendole in grado di esprimere la loro capacità, la loro esperienza, usando però le nuove tecnologie. Cioè, in azienda bisogna fare investimenti per la formazione continua del personale. Assolutamente sì, è esattamente questo. Ecco, quindi, questi investimenti nelle nostre aziende italiane, che nella media sono sempre un po' in ritardo, secondo lei vengono fatti? No, assolutamente non vengono fatti in maniera adeguata. Ci sono degli strumenti importantissimi come il fondo impresa, dovrebbero essere più utilizzati, e forse, mi lasci dire, ci vorrebbe un pochino più di umiltà da parte dell'imprenditore, della piccola e della media impresa, nel riconoscere che forse dovrebbe aprirsi e aprire la propria azienda alle competenze che arrivano dall'esterno. Questo è importantissimo. Dobbiamo passare dall'open innovation a qualche altra forma di openness, di apertura dell'impresa. Certo, perché ci avviamo a entrare in un mondo complesso dove l'imprenditore non può più essere solo, si deve avvalere di competenze importanti, di competenze esterne, e deve ragionare sempre di più nell'ottica del gruppo, della squadra, componendo anche squadre di lavoro diverse e aprendosi molto all'esterno. Giusto? Così, una grande impresa possiamo immaginare che abbia tutte le competenze al proprio interno, no? Perché sicuramente da qualche parte, in qualche branch della multinazionale, trova quello che le serve. La piccola, la media, è chiaro che non ha i numeri per fare questo, l'unico modo è di aprirsi, e questo sicuramente è un salto culturale che è necessario fare. Ecco, lei che cosa ne pensa, Ariello? Io sono assolutamente d'accordo con il professore, mi piace sentire queste parole. Io parlo spesso di contaminazione di idee, contaminazione di pensiero, perché oggigiorno l'impresa non sta vivendo un'epoca di cambiamento, ma stiamo veramente vivendo un cambiamento d'epoca, che la cosa è sostanzialmente molto diversa. Bisogna che gli imprenditori si aprano, cambiamo dei paradigmi culturali, facciamo entrare l'università dentro le nostre aziende, perché solo attraverso uno scambio e un continuo confronto reciproco si può creare competitività e si può far riconoscere al mercato il valore dei nostri prodotti. E come giustamente ricordava il professore, che è una cosa che io ribadisco sempre, è che nell'azienda ci vuole un equilibrio di competenze. È giusto avere persone laureate, ingegneri, tecnici, ma è giusto anche avere operai specializzati, ITS, scuole di formazioni tecniche di alto livello, perché solo attraverso la contaminazione di competenze differenti possiamo fare le cose in maniera differente. Magari si potrebbe pensare che l'Industria 4.0, essendo una cosa che si basa sui dati, perché il punto è che su ogni oggetto, su ogni componente viene messo un sensore che poi invia dei dati dei quali bisogna trovare un significato, ecco, l'Industria 4.0 in qualche modo riporta anche il sapere umanistico in azienda, e ci sarebbe bisogno forse anche di qualche filosofo come faceva Olivetti, oppure magari di ingegneri che abbiano letto qualcosa di letteratura o di filosofia. Lei che dice, Taish? Il paradigma che andrà ad affermarsi è quello per cui passeremo da un'automazione industriale, no? Quindi in cui pensiamo di sostituire la macchina all'uomo, a un'automazione cognitiva, no? Appunto, proprio basata sul dato, proprio basata sulla conoscenza, e quindi questo richiede la capacità di interpretare il dato, e quindi sicuramente andare ad affiancare le competenze tecniche, quelle, chiamiamole così, delle scienze umanistiche, può consentire poi alle persone di prendere le decisioni in maniera più contestuale, più veloce forse anche, e se vogliamo anche a guardare un pochino lateralmente. Io quello che dico sempre è che noi dobbiamo smettere di, quando decidiamo di guardare avanti, dobbiamo anche guardare lateralmente. Questo è un po' il vizio dell'ingegnere, perché l'ingegnere tante volte andava d'accordo col carabiniere, persona rigida che si fissa su certe cose e da quelle non esce. Era abituato a massimizzare, no, l'obiettivo. In realtà poi ci dimentichiamo che il mondo è molto più complesso, c'è la varianza da gestire, c'è l'imprescrutabilità del futuro, e quindi guardare lateralmente vuol dire anche saper cogliere quei segnali deboli che mi con tutto ciò poi. In quest'epoca di Industry 4.0 va detto che c'è bisogno di più ingegneri, ne abbiamo troppo pochi. Noi abbiamo un modello sociale che ancora fa pensare ai ragazzi di fare giornalisti. Io tra l'altro da giornalista ve lo dico, non fatelo, morirete di fame almeno per i primi 15 anni in cui lo farete. Oppure a fare i cuochi, questa dei cuochi è assolutamente terribile, una delle stupidaggini più grandi della nostra epoca. Mette in testa ai ragazzi che possono fare i soldi ed essere famosi facendo gli operai in cucina, che è un lavoro sottopagato e non è un lavoro equiparabile a quello degli altri. Ci vogliono ingegneri, ci vogliono tecnici, ci vogliono matematici, diciamolo. Ci vogliono anche fisici, ci vogliono tutte le scienze che sono quelle che poi consentono, no, di sviluppare anche nuovi prodotti, nuovi modelli di business. Non dimentichiamoci che Industria 4.0, noi di solito tendiamo a dire che no, è la fabbrica, no? La fabbrica 4.0, in realtà Industria 4.0 è l'industria 4.0, nuovi prodotti, nuovi e nuovi prodotti, modelli di business. E nuovi modelli di business, e quindi è chiaro che qui non basta solo l'ingegnere, ma servono tutte le competenze tecniche, serve la capacità di prevedere i mercati, serve l'analisi dei mercati, serve il marketing. E qui dobbiamo forse sensibilizzare molto di più di quello che abbiamo fatto fino adesso le famiglie degli studenti delle scuole medie superiori, perché al momento poi della scelta dei loro percorsi formativi spingano i giovani verso quei percorsi che gli garantiranno un lavoro domani. Che dice l'Airiello? Io una semplice suggestione, la maggior parte dei ragazzi che sono entrati nella scuola primaria quest'anno si troveranno a fare un lavoro che adesso non esiste, che deve ancora essere inventato. Quindi per forza bisogna creare un insieme di competenze che vadano verso il futuro, e l'Italia su questo ha tanta strada da fare, gli imprenditori hanno tanto da svecchiare, e solo attraverso anche il rapporto che si può creare con gli enti di formazione attuali io penso che potremo garantire competitività al nostro paese, fare in modo che il nostro paese venga inseguito e non sia lui a inseguire altri modelli. Ecco, e smettiamolo con questi cuochi perché non se ne può più. Saluto il professor Taish, alla prossima puntata, arrivederci. A risentirci, a presto a tutti gli ascoltatori. E saluto Giordano Riello. Grazie mille a voi. Arrivederci.